Sezione sedicesima della Divina Commedia, Il Paradiso, di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto sedicesimo. O poca nostra nobiltà di sangue, se gloriar di te la gente fai, quaggiù, dove l'affetto nostro langue, mirabil cosa non mi sarà mai, che là, dove appetito non si torce, dico nel cielo, io me ne gloriai. Ben sè tu manto che tosto raccorce, sicché, se non s'appon di die in die, lo tempo va d'intorno con le force. Dal voi, che prima Roma sofferie, in che la sua famiglia men persevra, ricominciaron le parole mie, onde Beatrice, che era un poco scevra, ridendo, parve quella che tossio al primo fallo scritto di Ginevra. Io cominciai: «Voi siete il padre mio, voi mi date a parlar tutta baldezza, voi mi levate sì ch'io son più ch'io. Per tanti rivi s'empie d'allegrezza la mente mia, che di sé fa letizia, perché può sostener che non si spezza. Ditemi dunque, cara mia primizia, quai fur i vostri antichi e quai fur gli anni che si segnaro in vostra puerizia? Ditemi dell'ovil di San Giovanni, quant'era allora e chi erano le genti tra esso degne di più alti scanni? Come s'avviva allo spirar de venti carbone in fiamma, così vidi quella luce risplendere a miei blandi menti. E come agli occhi miei si fe più bella, così, con voce più dolce e soave, ma non con questa moderna favella, dissemi: da quel dì che fu detto ave al parto in che mia madre, che or santa, s'alleviò di me ond'era grave, al suo leon 553 fiate venne questo fuoco a rinfiammarsi sotto la sua pianta. Gli antichi miei ed io nacqui nel loco dove si trova pria l'ultimo sesto da quel che corre il vostro annual giuoco. Basti dei miei maggiori udirne questo: chi ei si furo e donde venner quivi, più è il tacer che il ragionare onesto. Tutti color che a quel tempo eran ivi da poter arme tra Marte e il Batista erano il quinto di quei che son vivi, ma la cittadinanza, che è ormista di campi e di certaldo e di fighine, pura vedeasi nell'ultimo artista. Oh, quanto fora meglio esser vicine quelle genti, ch'io dico, e dal Galluzzo e dal Trespiano aver vostro confine, ch'averle dentro e sostener lo puzzo. Del villan d'Aguglion, di quel da Signa, che già per barattare ha l'occhio aguzzo. Se la gente che al mondo più traligna non fosse stata Cesare Noverca, ma come madre a suo figliuol benigna, tal fatto è fiorentino, e cambia e merca, che si sarebbe volto a Simifonti, là dove andava l'avolo alla cerca. Sariasi Montemurlo ancor de Conti, sarieni cerchi nel Pivier d'Acone, e forse in Val di Grieve buon del Monti. Sempre la confusion delle persone principio fu del mal della cittade, come del corpo il cibo che s'appone. E cieco toro più avaccio cade che cieco agnello, e molte volte taglia più e meglio una che le cinque spade. Se tu riguardi luni e d'urbisaglia come sonite, e come se ne vanno di retro ad esse chiuse sinigaglia, udir come le schiatte si disfanno, non ti parrà nuova cosa né forte, poscia che le città di termine hanno. Le vostre cose tutte hanno lor morte, sì come voi, ma c'è la sin alcuna che dura molto e le vite son corte. e come il volger del ciel della luna cuopre e discuopre liti senza posa, così fa di Fiorenza la fortuna, perché non deve parer mirabil cosa ciò che io dirò degli alti fiorentini, de quai la fama nel tempo è nascosa. Io vidi gli Ughi e vidi Catellini, Filippi, Greci, Ormanni ed Alberichi, già nel calare illustri cittadini. E vidi, così grandi come antichi, con quel della Sanella, quel dell'Arca, e soldanieri ed ardinghi e bostichi. Sovra la porta, ch'al presente carca di nuova fellonia di tanto peso, che tosto fia giattura della barca, erano i Ravignani, onde è disceso il conte Guido e qualunque del nome dell'alto Bellincione a poscia preso. Quel della pressa sapeva già come reggersi vuole, ed avea Galigaio dorata in casa sua già l'elsa il pome. Grande era già la colonna del vaio, sacchetti, giuochi, sifanti e barucci, e galli, e quei ch'arrossan per lo staio. Lo ceppo, di cui nacquero i calfucci, era già grande, e già erano tratti alle curule sizi ed arrigucci. O quali io vidi quei che son disfatti per lor superbia, e le palle dell'oro fiorian Fiorenza in tutti i suoi gran fatti. Così facen li padri di coloro che, sempre che la vostra chiesa vaca, si fanno grassi stando a consistoro. L'oltra cotata schiatta, che s'indraca dietro a chi fugge e a chi mostra il dente, over la borsa come agnel si placa, già venia su, ma di picciola gente, sì che non piacque ad Umbertin Donato che il suocero il facesse lor parente. Già era il caponsacco nel mercato disceso giù da Fiesole, e già era buon cittadino Giuda ed infangato. Io dirò cosa incredibile e vera: nel picciol cerchio s'entrava per porta che si nomava da quei della pera. Ciascun che della bella insegna porta del gran barone, il cui nome, il cui pregio la festa di Tommaso riconforta, da esso ebbe milizia e privilegio, avvegna che col popol si rauni oggi colui che la fascia col fregio. Già eran gualderotti ed importuni, ed ancor saria borgo più quieto se di nuovi vicin fosser digiuni. La casa di che nacque il vostro fleto, per lo giusto disdegno che va morti e posto fine al vostro viver lieto, era onorata essa e suoi consorti. O buon del monte, quanto mal fuggisti le nozze sue per gli altrui conforti! Molti sarebber lieti che son tristi, se Dio t'avesse conceduto ad Ema la prima volta che a città venisti. Ma conveniasi a quella pietra scema che guarda al ponte, che Fiorenza fesse vittima nella sua pace postrema. Con queste genti, e con altre con esse, vidio Fiorenza in sì fatto riposo che non avea cagione onde piangesse. Con queste genti vidio glorioso e giusto il popol suo tanto, che Giglio non era d'asta mai posto a ritroso, né per division fatto vermiglio. Fine del canto 16.